scherzavo di te, finché un bel giorno mi ritrovo con te ad amare. Le giornate passate tra noi, tra un mondo d'amore ed un bicchiere di tè, lasciando al passato i ricordi che non fanno per te. Le notti a sognare, le notti ad amare, ci sono servite soltanto a farci del male. Non saprò mai cos'è che c'è in te, un'idea diversa per stare con me, mentre mi trovo così a chiedermi cosa faccio io qui. Se tu non vuoi, se tu non vorrai, l'amore che non hai avuto mai, tu che non hai capito niente di me, tu che non hai capito niente di me. Credo che non sia facile per tutti e due rimanere da soli. Le cose che ormai non vedo più in te, pensavo che non finissero, sai, problemi risolti, litigi chiariti mai. È ora di andare e di andarmene via, non posso far niente per questa poesia. A volte, sai, ripenso che c'è un vuoto che prima riempì.